People are afraid of those who live near the monastery. They think I'm crazy. You don't think I'm crazy, do you? I get angry when people think I'm crazy. Circa 12 anni odiavo mio padre. Una vita lavorato, reputato un incapace. Amato da mia madre dal profondo del cuore. Rispettato da tutti per il suo onore. Alla mia età lui lavorava già e mi ha sempre detto di guardare più in là. Niente istruzione ma anni di esperienza. Ha sempre lottato contro la demenza della gente. Un uomo intraprendente in fondo al cuore e anche clemente. Lui sente, apprende, lo farà per sempre. Lui è la persona fra, non me. Mi ha insegnato di avere rispetto di me stesso. E che la vita, man, non ha prezzo. E bisogna godersela fino all'ultimo secondo, cercando di realizzare ogni tuo sogno. E sei costretto a tutto ciò che è mio. Per gli amici c'è Dio, per i nemici fra io. E un dito si prenderanno tutte le braccia. Ruffiani al punto da spaccargli la faccia. E sinceramente ho cambiato posizione. E ora, man, reputo lui il migliore. In ogni situazione è rimasto un signore. E sono orgoglioso di portare il suo cognome. Questa va a te e a chi mi sta accanto. Perdere tutto in un magico canto. Voglio risposte per andare più in alto. Guardatemi, sono sopra ad un palco. Questa va a te e a chi mi sta accanto. Perdere tutto in un magico canto. Voglio risposte per andare più in alto. Guardatemi, sono sopra ad un palco. Mi ha insegnato che l'odio uccide le persone. Che l'amore fa esplodere il cuore. Quante scelte sbagliate ho fatto per piacere. E quante ne ho fatte solo per sapere. Ma in fondo non ci sono mai arrivato. Dopo tante cadute mi sono sempre rialzato. Ma se il vecchio potesse e il giovane sapesse. Ma ce ne fottiamo e qua finisce tutta sberle. Tengo che meglio di te è un consiglio, ragazzo. Tossici e ladri qua non servono a un cazzo. Segui il tuo cuore e quello che pensi. E fai a meno di certi commenti. E studia più che puoi e cambia la tua vita. Ferisci tu prima di avere una ferita. Confidati e butta tutto fuori. Tutti i dolori e tutte le illusioni. La vita è diversa dalla televisione. Rimane nella storia chi ha passione. Non fidarti di nessuno, non ne vale la pena. Si commuovono e piangono, va, è tutta scena. Cerca di impegnarti e tirati sulle maniche. Molte volte fra, non servono le lacrime. Conoscere da tutti quanti. Si fa i cazzi suoi fra, campa 100 anni. Questa va a te e a chi ti sta accanto. Perdere tutto in un magico canto. Voglio risposte per andare più in alto. Guardatemi, sono sopra ad un palco. Questa va a te e a chi mi sta accanto. Perdere tutto in un magico canto. Voglio risposte per andare più in alto. Guardatemi, sono sopra ad un palco.